Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È il volume di Eclettica del giovedì, in un giovedì che, a meno che non mi sbagli clamorosamente, è il primo giorno d'estate. Giulio Caperdoni, in vostra compagnia, ringrazio Edo che vi ha accompagnato per mano fino alle ore 19, ora in cui inizia ogni giorno della settimana da lunedì al venerdì Eclettica sulle frequenze di Rock FM. I soliti recapiti internet giulio@radiorockfm.com, non solo per scrivermi direttamente ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica con cui ricevere ogni fine settimana la playlist della settimana che appunto si è appena chiusa, e myspace.com/eclettica invece il nostro spazio pubblico su cui si trova anche tutto il dettaglio relativo al podcasting. Crescendo, Mariam aveva capito. Era il modo in cui Nana proferiva la parola, sputandogliela in faccia, che la offendeva nel profondo. Allora aveva compreso cosa voleva dire Nana, che un harami era qualcosa di indesiderato, che lei, Mariam, era una figlia illegittima, che mai avrebbe potuto rivendicare di diritto le cose che gli altri possedevano, come l'amore, la famiglia, la casa, l'essere accettata. Jalil non la chiamava mai harami. Jalil diceva che lei era il suo fiorellino. Gli piaceva prenderla in braccio e raccontarle storie, come la volta in cui le aveva detto che Herat, la città dove Mariam era nata nel 1959, un tempo era stata la culla della cultura persiana, la patria di scrittori, di pittori e di sufi. In questa città non si poteva stendere una gamba senza dare una pedata in culo a un poeta, le aveva detto ridendo. Jalil le aveva raccontato la storia della regina Gauhar Shad, che nel XV secolo aveva eretto i famosi minareti, come un'ode alla sua benamata Herat. Le aveva descritto i campi verdi di grano che circondavano la città, i frutteti, le vigne cariche di flori di grappoli, gli affollati bazar dai soffitti a volta. «C'è un albero di pistacchio», disse Jalil un giorno, «e sotto l'albero Mariam è sepolto niente meno che il grande poeta Jami». Si chinò su di lei sussurrando: «Jami è vissuto più di 500 anni fa, davvero? Ti ho accompagnata una volta a vedere l'albero, eri piccola, non puoi ricordare». Era vero, Mariam non ricordava, e pur vivendo per i primi 15 anni della sua vita a un passo da Herat, non avrebbe mai visto quel famoso albero, non avrebbe mai visto da vicino i famosi minareti, non avrebbe mai colto i grappoli delle vigne di Herat, né avrebbe mai passeggiato nei suoi campi di grano. Ma ogni volta che Jalil le raccontava quelle storie, Mariam lo ascoltava estatica. Fremeva di orgoglio ad avere un padre che sapeva cose simili. Questo era ancora l'incipit di Mille splendidi soli, di Khaled Hosseini. Thank you. tale with whirling plans, romantic gesture with whirling plans. And so you make it your own, but this is where your arm can't go. You make it your own. Another phone call with woolen plans, romantic gesture with woolen plans. And so you make it your own, but this is where your arm can't go. You make it your own, but this is where your arm can't go. And your red sky at night won't follow me. It won't follow me now. I won't wear your shoes, and I won't clap your wings. When you lied, Okay, who's got food in here? You're not gonna get in, Trevor. I'm hungry. Eclettica si è aperta con uno dei miei brani del momento, uno dei miei tormentoni personali, uno di quelli che costituiscono i miei ascolti attualmente. The Twilight Set Cold Days from the Birdhouse. E lasciando così piccoli aneddoti personali, andiamo invece a fornire dettagli maggiori e forse anche migliori in relazione al pezzo appena ascoltato, che è un esordio pubblicato proprio oggi, 21 giugno 2007, da parte della K7 Records di Berlino. Esordio che si intitola Stateless, esattamente come il nome del gruppo, che proviene da Leeds, un gruppo che mette assieme guitar sound con elettronica, arrangiamenti d'archi e beats dei piatti, un gruppo che, pur esordendo, come già ho detto solo oggi, ha già cominciato ad attirare su di sé l'interesse di personaggi come Jim Abyss, che è il produttore degli Arctic Monkeys, ma soprattutto di DJ Shadow, che oltre a volerle ad aprire i suoi concerti ha chiamato Chris James, il cantante degli Stateless, nel proprio disco. Noi ce li siamo ascoltati con il brano dal titolo Exit. Ed ora andiamo a riprendere, come già abbiamo fatto anche settimana scorsa, il disco di remix degli Stars. In questo caso, ad essere completamente stravolta è Ageless Beauty. Belle e buone, diceva Nana dopo che Jalil se n'era andato. Un pezzo grosso che le spara grosse. Non ti ha mai portato a vedere nessun albero. E tu non lasciarti incantare. Ci ha tradite il tuo adorato padre. Ci ha buttate fuori dalla sua grande casa lussuosa come se non contassimo nulla per lui. L'ha fatto a cuor leggero. Mariam ascoltava con punta. Non avrebbe mai osato dire a Nana quanto le dispiaceva che parlasse di Jalil a quel modo. La verità era che, accanto a lui, Mariam non si sentiva affatto una harami. Per un paio d'ore ogni giovedì, quando Jalil veniva a trovarla tutto sorrisi, doni e affettuosità, Mariam sentiva di meritare tutta la bellezza e la bontà che la vita aveva da offrire, e per questo amava Jalil, anche se non era tutto suo. Jalil aveva 3 mogli e 9 figli. 9 figli legittimi, degli estranei per Mariam. Era uno degli uomini più ricchi di Herat, possedeva un cinema che Mariam non aveva mai visto, ma che Jalil, su sua insistenza, le aveva descritto, e perciò lei sapeva che la facciata era rivestita di piastrelle di terracotta blu e ocra, che c'erano posti riservati in galleria e un soffitto coperto da graticci. Porte a vento immettevano in un atrio piastrellato dove, in apposite vetrine, erano in mostra poster di film indiani. Al martedì, aveva detto Jalil, alla bancarella veniva offerto gelato gratis a tutti i bambini. A queste parole Nana aveva sorriso con discrezione. Quando Jalil aveva lasciato la colba, era sbottata con un risolino amaro. «Offre gelato ai figli degli sconosciuti. E a te cosa offre, Mariam?» «Storie di gelato». Questo era ancora l'incipit di «Mille splendidi soli» di Khaled Hosseini. The point is, y'all can just chill today.